elementare, Watson. La scienza risponde alle vostre domande. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Sta per iniziare un film di Dario Argento? Ma non c'è nemmeno bisogno delle immagini, solo a sentirla ti viene la... Sì, brividi. Quella I denti. Battono i denti. Invece? Questa musica in realtà è stata composta quando... Il cinema non era nemmeno sonoro. Esatto. È di Béla Bartók. Chissà se è questo che Stefano intende dire. Perché quando ascoltiamo una musica a noi gradita, i brividi ci attraversano il corpo e abbiamo la pelle d'oca? Grazie. Verissimo, a me capita sempre quando vado al concerto di Vasco Rossi. Vabbè, andiamo a Bologna da un docente di neurologia dell'Università di Bologna. Benvenuto, professor Cortelli. Grazie, salve a tutti gli ascoltatori. Pietro Cortelli, ecco. Pietro Cortelli. Ci dica, perché rabbrividiamo? No, la domanda è molto pertinente e, diciamo, si può generalizzare in due concetti chiave. Il primo è il ruolo che la musica ha nelle nostre emozioni. Oggi sappiamo che ciascuna delle nostre emozioni ha una base neurobiologica ben definita con dei trasmettitori particolari. Quando, diciamo, l'emozione che ci viene provocata è nel versante del piacere, molto spesso abbiamo questa sensazione di pelle d'oca perché i nostri muscoli piloerettori sono governati da una sostanza che è l'adrenalina, quindi l'emozione provoca la secrezione di adrenalina, la quale a sua volta provoca questa particolare conformazione della pelle che definiamo pelle d'oca. Che di fatto, non so, fisiologicamente parlando, si rizzano i peli, cioè come funziona? Il poro pilifero viene stimolato? Esatto, noi abbiamo nella nostra evoluzione mantenuto questi muscoli che servono per rizzare il pelo. Chiaramente negli animali questo è un segnale di aggressività o di difesa a seconda delle situazioni. Nell'uomo ha perso moltissimo chiaramente questo suo significato evolutivo, però ci sono rimasti questi muscoletti e quindi sostanzialmente noi vediamo la pelle d'oca con questa piccola piloerezione. È un, diciamo, rimasuglio di quando eravamo animali, della savana. Il meccanismo è il medesimo se proviamo il momento di piacere, come nel caso della musica, del concerto, della canzone, oppure un momento di terrore? No, il meccanismo neurobiologico è chiaramente diverso come centri che vengono coinvolti, perché se noi abbiamo paura dobbiamo attivare tutta una serie di situazioni per lottare e quindi non c'è solo il brivido o la pelle d'oca, ma c'è tutta un'altra serie di altri segni e sintomi sempre legati a questa adrenalina, ma la differenza è quanta ne viene secreta. Certo, però c'è della musica che ci mette paura. Noi dovremmo reagire, è chiaro che bisognerebbe fare un bel piano sperimentale per dare una risposta esatta e io al momento non ne conosco di esperimenti di questo tipo, anche se sulla musica si sta facendo moltissimo perché è una delle tecniche anche di riabilitazione più evolute, più moderne per quanto riguarda anche molti danni neurologici. Però è chiaro che se sentiamo una musica che ci fa paura prevale l'emozione che ci dà più sopravvivenza, cioè quella che ci fa evitare la cosa di cui abbiamo paura. Certo. Quindi, la cosa singolare però è che queste musiche che ci mettono paura, uno potrebbe dire già perché sono connesse a quell'immagine dei thriller che vediamo. Il film dell'orrore. Ma prima ne abbiamo sentita una che è di un secolo quasi vecchia, quando non c'era niente di tutto ciò. Quindi c'è qualcosa, un certo tipo di musica che ci mette ansia. Sì, il rumore e la musica, diciamo, ci fa piacere o meno a seconda di quanto si mette in consonanza con determinati circuiti cerebrali. Sì, ci sono dei suoni che effettivamente sono, come dire, in contatto con parti del fisico. Certo, parte tutto dal cervello, nel senso che ci sono dei ritmi. Noi come facciamo a definire che una cosa è stonata e una cosa è intonata? Per esempio, certo. Noi lo definiamo sulla base innata di una cosa che sentiamo intonata perché è in corrispondenza con alcuni nostri ritmi. Sì. Nessuno dice che ci siano degli altri esseri viventi che quella cosa lì non sia completamente stonata. Però lei ci ha detto che qui in fondo ci sarebbe tanta ricerca da fare, perché molto non si sa. Molto, moltissimo, assolutamente. Una delle, per esempio, delle musiche, delle danze che viene più studiata al giorno d'oggi per quanto riguarda le reazioni vegetative è proprio il tango, dove i due ballerini hanno il massimo dell'affiatamento quando riescono a mettere in consonanza i propri ritmi cardiaci, per esempio. Questo è stato ben dimostrato. Vede, quindi... questo non lo sapevamo, questo bellissimo. È molto interessante, molto interessante. Certo. Niente, tempo a disposizione terminato, qui ci sarebbe da parlare sulla musica, il cervello. Si potrebbe fare una trasmissione apposta. Grazie Cortelli, che altro dire? Buon lavoro. Niente, alla prossima, arrivederci. A presto. Fate come Stefano, mandateci le vostre domande di scienza a elementare@radio24.it, perché Federico rispondiamo a tutto. Per esempio, ci scrive Tony Mammone dall'isola di Montecristo, ma quei funghi che si prendono in piscina si possono mettere nel risotto? Elementare, Watson!